Orsù, popol drudo, snuda le mani, non vedi che giungon Meazza e Rosciani, i signor di finanza dagli acuti cervelli che mai ne furon visti sì lucidi e belli. Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Questo lunedì più triste dell'anno? No, vabbè, è una, cara Deborah, sì. Non è proprio una cosa scientifica, è un'equazione che hanno ricavato, non si sa bene come, uno psicologo appunto ha ricavato questa equazione e l'ha presentata in un articolo sul Guardian anni fa. Ecco, sicuramente una giornata molto triste per tutti i furbetti dell'affitto breve. Allora, circostanziamo bene la vicenda. Io so intanto che tu... buongiorno. Buongiorno, buona settimana, cara Deborah. Teniamoci su in questo Blue Monday, perché appunto così effettivamente pare che sia il terzo lunedì dell'anno. E poi un bel nome da dare ad un hotel. Hotel California, vuoi dire? L'Hotel Blue Monday. Hotel Blue Monday, sì, potremmo effettivamente brevettarlo. Sì. Allora, qual è la versione? Tu sei presentata qui stamattina presto, hai letto religiosamente le pagine enormi attributi del Sole 24 Ore. Come tutte le mattine, numero naturalmente. Numero ricchissimo, come sempre il lunedì. Anche se poi la notizia ghiotta mi sfugge sempre e tu ovviamente sei lì come un falco a richiamare l'attenzione. Allora, la notizia è che, attenzione a portare il caffè se affittate la camera con Airbnb, ad esempio, perché passate dalla locazione all'hotellerie. E allora non ci sarebbe niente di male se non fosse poi che se lo viene a sapere il fisco e naturalmente ha delle rivendicazioni da il fare. Il fisco, il codice civile, la camera di commercio, insomma chi più ne ha più ne metta, perché, attenzione, trovate proprio nelle pagine enormi attributi, sempre religiosamente da leggere tutti i giorni, ma in particolare il lunedì, trovate proprio una distinzione di questo tipo. Ci sono alcuni servizi che possono essere forniti senza andare a finire nell'area della hotellerie, se voi affittate un locale o un appartamento, ma ci sono altri che invece vi portano istantaneamente, in forza di decisioni della Cassazione, anche risalenti, in forza di queste decisioni vi portano immediatamente nell'area dell'hotellerie e quindi uscite da tutte anche le agevolazioni su cui potete invece contare se restate nell'altra area. E quindi insomma che il vostro host il caffè se lo faccia da solo e quindi non ci va, non succedono non so, gli problemi, lasciate pagato un caffè sospeso al bar, esatto, e così nessuno sa niente e si va avanti così. Va allora bene. Ricordiamo peraltro che la diffusione dei cosiddetti affitti brevi è stata molto intensa nel nostro paese, è passata dall'11 al 18% nel corso del 2019, sono dati di Scenari Immobiliari. L'Italia è la nazione in cui questo fenomeno cresce di più in Europa, in cui appunto cresciamo di più in questo comparto. Sono oltre 200 le città e le località in cui è presente questa tendenza, mentre nel resto dell'Unione Europea ci si concentra soprattutto nei grandi centri. Invece qua anche un po' in località magari un po' più distante dai grandi centri, qualche famiglia, insomma qualche persona tenta di arrotondare lo stipendio rendendo disponibili le proprie abitazioni. Ma di che si parla in questo lunedì dopo Meteo Borsa e dopo il giornale radio del risparmio? Abbiamo spostato un pochino il giovedì anticipandolo a lunedì volendo. Oggi facciamo una sortita un po' da giovedì effettivamente e così ovviamo anche il discorso del Blue Monday, lo facciamo diventare un Thursday e in questo modo qui ci sganciamo, perché vorremmo parlare dei PIR. Sì. Perché devi sapere, cara Deborah, anzi tu mi insegni, come dicono quelli bravi, che dopo uno sciagurato intervento normativo che ha caratterizzato il 2019 con il sostanziale blocco degli investimenti nuovi in questi piani di investimento, piani di investimento agevolato, premiati, come sapete, da fiscalmente, una... Esatto. Se fate i bravi, state lì per 5 anni, il fisco non vi chiede le tasse sul vostro guadagno. Questa è la regola enunciata. Male, ma la sostanza è così dei PIR. È una regola che era piaciuta tanto perché tra il 2017 e il 2018 la raccolta è stata veramente imponente di questi strumenti di investimento, dopodiché revisione legislativa, blocco della raccolta e adesso adesso invece revisione legislativa ulteriore, adesso si sta riprendendo. Abbiamo chiamato oggi al rapporto due grandi player in questo mercato per farci raccontare in questo momento come stanno le cose. Se vuoi presentiamo subito in ordine alfabetico per cognome rigorosamente. Sì, tra l'altro non è facile perché... Giovanni Brambilla, che è amministratore delegato e responsabile investimenti di A come ASGR, benvenuto a Due di Denari. Grazie, grazie a voi. E Alberto Zorzi, responsabile della direzione investimenti retail di Arca Fondi SGR. Benvenuto anche a lei, dottor grazie. Zorzi. Allora, io direi che gli ascoltatori possono già, se vogliono, candidarsi con le loro domande all'800 24 00 24, oppure potete scriverci come fate tutti i giorni al 349 238 6666. Potete utilizzare la consueta modalità SMS o anche la modalità su WhatsApp. Direi di fare subito i mercati perché la settimana parte in maniera molto interessante. Ma da Blue Monday? Un pochino sì. Ma vediamo. Meteo Borsa. E buongiorno e bentrovata Laura Tardino, responsabile della clientela istituzionale di Aberdeen Standard Investment. Buongiorno, bentrovata. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Scatto la consueta Polaroid alla seduta di borsa in questo momento. L'avvio di settimana negativo per i mercati continentali. Parigi scende dello 0,3%, Francoforte meno 0,03%, Londra meno 0,23%, Milano meno 0,44%. Su Milano pesa lo stacco dell'acconto di dividendo su due società importanti, sono Enel e Snam, che rispettivamente perdono l'1,35% e l'1,8%. Questo stacco di acconto di dividendo pesa per lo 0,39% sul FTSE MIB, che quindi al netto di questo sarebbe ugualmente negativo ma in misura inferiore rispetto alla percentuale che abbiamo raccontato. Stamattina parte la giornata già con un'osservazione speciale nei confronti del petrolio. Tardino, allora, le questioni internazionali stanno ancora dominando l'attenzione degli operatori finanziari? Sì, assolutamente. Abbiamo visto che durante appunto il weekend c'è stato in realtà questo annuncio potenzialmente positivo, no? Anche nei confronti delle borse su un possibile cessate il fuoco in Libia. Non sappiamo bene in realtà quanto durerà e abbiamo visto che in realtà anche settimana scorsa ci sono state alcune dichiarazioni, no? Per cui qualche linea di produzione appunto petrolifera importante in Libia potrebbe in effetti essere chiusa. Tra l'altro siamo in attesa anche di dati macroeconomici piuttosto importanti, anche sulla domanda direi del petrolio. Ci sono oggi probabilmente anche le nuove stime sulla crescita mondiale da parte del Fondo Monetario Internazionale. Insomma, diciamo che se a fronte di una maggiore domanda questi problemi sia politici sia anche effettivamente di produzione appunto di petrolio da parte di un importante operatore qual è appunto quello libico potrebbero ovviamente condizionare il prezzo del petrolio, che mi pare appunto continui a salire. Siamo, per quello che riguarda il Brent, sopra i $65 al barile, il greggio di riferimento europeo, e per quello che riguarda invece il greggio di riferimento americano WTI siamo leggermente al di sotto dei 59. Mauro. Ma io volevo così chiedere alcune cose alla nostra ospite, la nostra meteorologa del giorno, sulle diciamo l'evoluzione della settimana, perché è una settimana un po' strana questa, nel senso ci sarà il forum di Davos, lì tra l'altro è atteso anche Donald Trump, ci sono i governatori delle banche centrali, però da un altro punto di vista oggi mi pare è il Martin Luther King Day, ricorre Wall oggi Street è chiusa, e quindi sì. E i cinesi invece stanno per prepararsi a festeggiare il loro capodanno e quindi chiuderanno, quindi è una settimana un pochino a scacchiera per i mercati. Cosa bisogna aspettarsi? Di solito quando ci sono queste chiusure poi ci sono anche degli scossoni un po' inattesi, o no? Speriamo di no. Allora direi che con ordine, sicuramente c'è l'appuntamento importante soprattutto da un punto di vista direi politico dei grandi temi a Davos, questo è vero, è atteso Trump, andrà anche Greta, pare, Thunberg, perché i grandi temi appunto sul tavolo sono sicuramente quello del clima, che ha fatto parecchio discutere appunto nel corso dell'ultimo anno direi, e poi sicuramente anche il tema delle disuguaglianze sociali, insomma nelle prime pagine della stampa internazionale rimane rimbalzato proprio in questi giorni, è rimbalzata la notizia, insomma, che aumenta la disparità sociale, no? E quindi questo sicuramente è un tema che verrà probabilmente, insomma, affrontato anche a Davos. Ciò detto, non credo che sarà, come al solito, insomma, Davos a condizionare particolarmente i mercati. Credo che sicuramente molto importante è quello che ormai da alcune settimane è invece il punto sugli utili aziendali, quindi la reporting season americana e direi anche europea, molto molto importante, perché in realtà sappiamo benissimo che i mercati vengono da anni di crescita significativa, si sono molto apprezzati, l'anno scorso è stato sicuramente un anno record con rialzi insomma intorno al 30%, le valutazioni potrebbero essere direi molto care qualora appunto gli utili non accelerassero, quindi sicuramente gli utili sono molto molto importanti, non soltanto quelli pubblicati sull'ultimo trimestre del 2019, ma soprattutto in termini di guidance, di indicazioni che le società nel pubblicare appunto questi utili daranno sul futuro, sul 2020. Un'occhiata ai migliori titoli di Milano in questo momento: Pirelli più 1,10, A2A più 0,98, STM più 0,95. Nel settore petrolifero, peraltro, dicevamo in evidenza i titoli che beneficiano del rialzo delle quotazioni del greggio, fra questi abbiamo Saipem più 0,6%, mentre dall'altra parte appunto segnalavamo Snam, ma per lo stacco del dividendo va in una direzione diversa, per cui questa mattina il mercato punta un po' su settori abbastanza differenziati. Non è una buona giornata per il comparto bancario, che torna a scendere, ma questo insomma è un settore che si muove anche sull'onda delle speculazioni legate ad una possibile operazione di consolidamento che in molti auspicano in Italia. Le due grandi candidate, Banco BPM e UbiBanca, oggi tornano a scendere, sono in ribasso di circa un punto. Lo spread BTP e Bund è 157 punti base. Sul fronte del mercato obbligazionario, Tardino, abbiamo delle attese speciali questa settimana? Ma c'è sicuramente l'incontro della BCE il prossimo giovedì, sarà il primo speech, il primo discorso ufficiale appunto dell'anno di Christine Lagarde. Non credo che ci saranno in termini appunto di politica monetaria sorprese particolari, c'è grande attesa però su quello appunto che la nuova presidentessa potrebbe dire in termini di riforma, se vogliamo, dell'istituto, perché in effetti si è molto discusso in questi ultimi mesi di una possibile revisione della strategia. Esatto, esatto. Nuovi parametri, nuovi target, a fronte del fatto che sicuramente la politica monetaria in tutto il mondo, insomma, in quest'ultimo decennio è stata non soltanto particolarmente attiva, ma probabilmente, ecco, è arrivata anche ad un punto tra virgolette di non ritorno, nel senso che ha utilizzato parecchie munizioni, quindi ci si chiede da più parti intanto se ha sortito l'effetto che effettivamente avrebbe dovuto sortire, soprattutto in termini di inflazione, e quali altre armi invece eventualmente insomma tirare fuori dal cilindro magico qualora dovesse essercene ancora bisogno, ecco. Grazie a Laura Tardino. Allora vedremo come evolverà questa settimana. Poi naturalmente una sola battuta, dottoressa Tardino: Brexit, perché qui ci avviciniamo a questo 31 gennaio, succederà poi qualcosa finalmente dopo 3 anni che aspettiamo, o no? Assolutamente, direi intanto iniziamo ad avere in regola e aggiornati insomma i nostri passaporti, poi sì, vedremo esatto che cosa succederà. Direi che sicuramente c'è un po' più di visibilità rispetto insomma a quello che era qualche mese fa, nel senso che adesso per certo sappiamo che comunque UK insomma sta per uscirà appunto dall'Europa. Con quali accordi tra Europa appunto e UK probabilmente sarà più chiaro nel corso delle prossime settimane, la chiarezza ai mercati fa bene, quindi vedremo anche da questo punto di vista quali saranno i commenti che, ripeto, il Fondo Monetario Internazionale farà nelle prossime ore anche a tal proposito. Grazie mille. Grazie a voi, buona giornata. E cara Deborah, noi andiamo al giornale radio del risparmio. Ma a questo andiamo punto anche abbastanza rapidamente, direi. Amore, i soldi. Ricorderò e comunque, e so che non vorrai. Ti chiamerò perché tanto non risponderai. Come come far ridere adesso, pensarti come un gioco. E capendo che ti ho perso, ti scatto un'altra foto. Certo che c'è da divertirsi, ecco, a frequentare i tribunali italiani. Ti scatterò un'altra foto, attenzione. Non va più di moda scattare la foto, o fai un selfie oppure non vale niente. Va bene, però ricordati, cara Deborah, sì? Che non basta un selfie per dimostrare l'adulterio. Ah no, come mai sei così esperto della materia? Sono esperto perché adesso non vorrei dormire nella vasca da bagno per i prossimi mesi. Sono esperto perché ho letto sul Sole 24 Ore il contributo di Marisa Marraffino, che è una voce anche nota agli ascoltatori di Radio 24, che mi ha spiegato dottamente come la Corte d'Appello dell'Aquila cosa ha combinato, abbia sostenuto più o meno questa cosa. La signora si è fatta un selfie con l'amante a torso nudo sul letto. Erano proprio lì in atteggiamento inequivocabile? No, non era inequivocabile, era, secondo la Corte d'Appello, era un atteggiamento equivocabile. Certo, quale persona sposata non si fa un selfie con una persona un mezza amico, nuda dall'altra parte? Certo. Ma certo. Beh, una corte d'appello di larghe vedute, oserei dire. Sì, sì, sì. Diciamo che la corte ha detto no, ma non possiamo dire che questo ci basta per dare l'addebito della separazione in capo alla moglie, perché questo selfie non testimonierebbe. Ecco, non so che cosa volevano vedere questi giudici della corte d'appello, però questo è stato quello che ha sancito il tribunale. Sul Facebook invece, tu che è stato civile hai messo? Sposato o non hai messo nulla? Io secondo me non ho messo niente, perché mi affretterei ad andare a fare miei. Delle precisazioni, però sì, perché può dar luogo ad un illecito civile cambiare il proprio status su Facebook da sposato a separato quando la causa è ancora in corso. Si tratta di una condotta che lede pubblicamente la dignità e la reputazione del coniuge. In questo caso lo ha stabilito il tribunale di Torre Annunziata. Guarda, io a questo punto tempo fa, però diciamo che Marisa ha fatto un po', Marisa l'avvocato Marraffino ha fatto tutta una cronistoria di tutte le pronunce di cui dobbiamo ben ricordarci. Una carrellata tra le pronunce comode e scomode in materia di adulterio o presunto tale, per carità, perché appunto il selfie non basta. Senti, io mi metto a leggere invece la guida dell'esperto risponde di oggi che parla di fattura elettronica. Ho avuto un brivido lungo la schiena. E così almeno mi rifugio nelle certezze, si fa per dire, fiscali. Prego Deborah, vorrei raccontarmi una vicenda di bond universitario. No, questa è molto carina perché anche delle prestigiose istituzioni naturalmente si provano ad avvantaggiare di questa condizione di tassi bassi di interesse, appunto per fare, come si dice, funding. In questo caso è successo all'Università di Oxford, che non si è lasciata sfuggire l'occasione per aumentare il taglio del suo Matusalem bond. Sono generalmente delle obbligazioni a scadenza perpetua, più di 100 anni, e avrebbe collocato una seconda tranche da 1 miliardo di sterline. È una obbligazione che viene ritenuta molto sicura perché Moody's addirittura ha assegnato a questo bond una tripla A, e quindi il merito di credito più alto, e quindi insomma questa è una cosa anche molto interessante. Questa università si sostiene anche attraverso questa modalità. Ecco, se aveste queste obbligazioni, quindi con scadenza 100 anni, quindi è probabile che abbiate delle questioni di eredità, sappiate che è diventato possibile utilizzare in alcuni casi, non sempre, il 730, il modello 730 in luogo del modello redditi, una volta lo chiamavamo modello unico, utilizzare il 730 anche per le eredità, per regolare le vicende con l'erede. Indovina dove l'ho letto? Sul Sole 24 Ore di oggi, naturalmente. Senti, apriamo il nostro sportello reclami, va. Dillo a due di denari. Come mai mia figlia, che lavora e che fa un reddito di 7-8 mila euro all'anno e abita con me, giustamente lei i soldi se li mette da parte per un eventuale futuro, comprarsi, non so, una macchina, pensare andare a convivere. Quando faccio la domanda dell'ISE, quei soldi che lei ha in giacenza media mi vengono accollati tutti a me. Massimo da Bergamo, ma scusate, allora, su quelle prepagate io ho i contanti, posso metterli, la banca me le carica, e la tracciabilità, chi va a vedere da dove vengono quei contanti? Non so. Un saluto. Pensavi solo ai soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Domani Domani risponderemo alle perplessità di questi nostri ascoltatori, ma direi di introdurre subito l'argomento centrale di questa puntata che abbiamo preannunciato all'inizio. E sai come lo faccio, Mauro? Leggendo subito un messaggio di un ascoltatore. Prego. Che ci chiede, ci racconta. Ha aperto un PIR nel 2018, azionario. Sempre negativo. Come mai le banche non mi hanno messo al corrente delle nuove procedure? Perché, diciamo, nessuno doveva metterla al corrente di niente. Per chi ha già un PIR sottoscritto quando poteva farlo, naturalmente, quindi lo ha regolarmente detenuto, non doveva sapere nulla rispetto alla nuova normativa che di fatto ha bloccato nuova raccolta, nuovi prodotti. Allora chiediamo subito dei chiarimenti ai nostri ospiti. Da chi vuoi cominciare? In ordine alfabetico per cognome? Ah sì, allora rispettiamo la regola che ci diamo tutti i giorni. Giovanni Brambilla, sì. Prego. Amministratore delegato, responsabile investimenti di Acomea SGR. Forse vale la pena rifare un po' di storia, di resoconto rispetto a questa vicenda che ha molto appassionato gli ascoltatori, soprattutto quelli che avevano sottoscritto questi prodotti di investimento che nel 2017 hanno raccolto quasi 11 miliardi di euro, un po' meno nel 2018, quasi 4 miliardi, i mercati andavano così e così e quindi probabilmente i risparmiatori hanno pensato di fare altre scelte. Perché si era bloccata la raccolta dei PIR? Ce lo vuole ricordare. E poi che cosa è successo quest'anno quando è stata data la possibilità alle società di gestione di risparmio di rimettere sul mercato appunto queste soluzioni di investimento? Buongiorno a tutti. E la raccolta dei PIR era stata bloccata con la legge di stabilità del 2018 perché si andava a modificare sostanzialmente la tipologia di investimenti che le SGR facevano in questi fondi. Ricordo che il PIR nella sua versione originale prevedeva, fatto 100% il portafoglio, che il 70% venisse investito in Italia e di questo 70% il 30% non doveva essere FTSE MIB, cioè quindi non dovevano essere le cosiddette large cap. Grande capitalizzazione. Esatto. Nel 2018 si è portata una modifica, cioè la legge aveva portato una modifica per cui si introduceva un ulteriore vincolo che era rappresentato dall'investire in società o comunque in realtà non quotate, quindi del cosiddetto private equity o del venture capital, che sono, diciamo, due strumenti che per un fondo comune di investimento che fa quota tutti i giorni e che deve regolare i prezzi delle azioni sottostanti in base alla quotazione di borsa, diventava difficoltoso. Non è un settore liquido, diciamo, come diciamo. Esatto, e quindi sia le SGR e soprattutto la categoria, la suggestione, aveva preso una posizione contraria a questo tipo di strumento perché diventava difficile andare a fare una quantificazione poi degli strumenti presenti. Alla fine di quest'anno la legge è tornata, ha rimodificato e siamo ritornati un po' alla vecchia versione, introducendo sempre le stesse regole, quindi il 70% deve essere investito in Italia, di quel 70 al 30 non è FTSE MIB, e è stato introdotto un 5% di questo 70 che deve essere, oltre non FTSE MIB, deve essere anche non FTSE mid cap, cioè aziende di media capitalizzazione. Quindi diciamo c'è una porzione di portafoglio che deve essere investito in aziende di piccola dimensione, quindi il FTSE small cap o l'AIM, il cosiddetto mercato delle aziende di piccolissima dimensione o startup. Allora, noi ci dobbiamo fermare perché diamo l'aggiornamento come sempre alle 11.30 per quanto riguarda l'andamento delle borse. Vi ricordo 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, già in diversi vi state prenotando, oppure 349 238 6666 per messaggi, SMS o WhatsApp. Parliamo dei PIR che quest'anno veramente ripartono, ma prima le borse. Bravi, fate pubblicità alle banche. Bravi, bravi. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta con Suzuki 4x4 All Grip. Ogni percorso sarà una sfida da vincere. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Risveglia il tuo istinto. Scoprila sabato e domenica. Info su suzuki.it. Suzuki. I miei risparmi. Interessi praticamente zero. Meno i costi, fa più o meno. Meno. I conti correnti rendono sempre meno. Banca Mediolanum invece ti dà di più. Sono Massimo Doris. Mediolanum oggi ti offre il 2% annuo sulle nuove somme vincolate a 6 mesi. Più un Family Banker dedicato per ogni tua esigenza. Mediolanum ti dà di più. Da sempre. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Pubblicità. Per i correntisti tasso lordo sui vincoli in promo fino al 31 marzo. Documento promozioni e fogli informativi su bancamediolanum.it. Tutti vogliono far parte della convenienza doppia Coop. Sentiamo un'arancia. Sono conveniente per la spesa e per l'ambiente. Ho residui chimici molto inferiori ai limiti consentiti. Meno del 70%. Questo è il succo. Fino al 22 gennaio, arance rosse Moro origine Coop a solo 89 centesimi al chilo. 1,78 la confezione da 2 kg. La Coop sei tu. Nel 2002 mi sono diplomato. Nel 2006 ho aperto un bar. Nel 2010 mi sono sposato. Nel 2011 è nata mia figlia. Nel 2015 sono stato arrestato per omicidio. Nel 2016 sono stato condannato a 30 anni. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte ogni giorno contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. Due di denari. Allora, sì, cara Deborah, io però vorrei capire se ho capito. Quindi chiedo conferma ai nostri due ospiti, Giovanni Brambilla, amministratore delegato responsabile investimenti di Acomea, e Alberto Zorzi, responsabile direzione investimenti di Arca Fondi. Avevo un vecchio PIR, quello, diciamo, varato con la primissima normativa. L'ho tenuto perché voglio arrivare fino ai 5 anni per prendere questo sconto fiscale. È cambiata la normativa, ma per me col vecchio PIR non è cambiato nulla. Ho capito bene? È così, Zorzi? Corretto. Si poteva tranquillamente continuare il proprio piano d'accumulo, chiamiamolo in questi termini, senza nessun problema. Quindi io non ho avuto alcun riflesso dal cambiamento della normativa che ha bloccato invece i nuovi PIR, cioè non sono stati varati dei nuovi prodotti, dei nuovi PIR. Corretto, con la nuova... in quanto l'accensione di un nuovo PIR avrebbe richiesto la sottoscrizione di prodotti conformi alla nuova normativa, che è quella che abbiamo spiegato poc'anzi, essere un po' ostica per no, lo gestore. Chiedo, sai perché, Deborah? Perché in diversi ci stanno scrivendo dicendo, sì, ma a me non l'avevano spiegata questa cosa, infatti, che era cambiata la norma, e allora non... In realtà se io avevo quello vecchio... sono andato avanti e vado avanti con, certo, le regole precedenti. Diciamo che uno avrebbe dovuto conoscere la nuova normativa nel caso in cui lo scorso anno si fosse presentato da un intermediario e avesse chiesto di sottoscrivere un PIR. Allora in quel frangente le banche e le società di gestione non hanno dato l'opportunità di fare nuova raccolta e nuove sottoscrizioni, perché appunto tutte avevano un po' bloccato in attesa che la legislazione si chiarisse. Ma voi che vi interfacciate con la vostra clientela, le domande sono dello stesso tenore di quelle che ci arrivano in radio stamattina, Zorzi? Ma in generale c'è stato disorientamento lo scorso anno, però noi abbiamo da un lato sempre promosso comunque, rincuorato chi aveva già sottoscritto questi prodotti, anche perché poi l'incentivo fiscale chiaramente fa gola a tutti, ma il vero razionale per sottoscrivere un prodotto di questo tipo sono gli strumenti che ci stanno dentro, e appunto la parte qualificante rappresentata dalla piccola e media impresa italiana è sicuramente un motivo di grande interesse, che rimane tale indipendentemente dal fatto che i PIR ci siano o non ci siano. Certo. Io vorrei chiedere invece a Brambilla, ma questa revisione che adesso è arrivata dal 2020, quindi che ci fa ben sperare, ci fa pensare che arriveranno nuovi PIR disponibili per sui quali investire, ha modificato anche gli altri vincoli, perché c'erano dei vincoli, ad esempio il tetto massimo di investimento che non si poteva superare e così via, e credo però siano rimasti identici, la legge di bilancio non è intervenuta. Sì, esattamente, sugli altri vincoli non è intervenuta, per cui ricordo che i vincoli precedenti erano di 30.000 euro di sottoscrizione all'anno, per 5 anni, che non necessariamente devono essere consecutivi, per cui uno può anche investire 10.000 euro in un anno per 15 anni. Diciamo che la cifra massima è rappresentata da 150.000 euro. Quindi se, giusto per fare un esempio e capire anche come la fiscalità funziona, se io alla fine del periodo di investimento investo 150.000 euro e realizzo un 10% dal mio investimento nel momento in cui lo smobilizzo, i 15.000 euro rispetto a una situazione non peer dove vengono tassati al 26% e quindi ho il 15.000 euro meno il 26%, nel caso dei peer il mio guadagno di 15.000 euro è totalmente incassabile senza pagare nessuna imposta sul valore aggiunto, diciamo un'imposta sul capital gain. Esatto, certo. Questa ci sono, esatto, ascoltatori che tornano a sollevare la questione dei rendimenti di questi prodotti nel 2018. Ricordiamo che è stato l'anno nero dei mercati, il peggiore degli ultimi 10 anni, il peggiore dalla crisi partita nel 2007-2008, con tutte le classi di investimento che sono finite in negativo. Ma se si guarda Zorzi invece poi a quello che è successo nel 2019, immaginiamo che abbiano recuperato. Ma hanno recuperato anche perché nel 2019 sono andate bene tutte le classi di attivo. L'invito è sempre quello a guardare questi prodotti per quello che effettivamente sono. Se il legislatore ha dato un incentivo fiscale per chi rimane investito almeno 5 anni, è chiaro che dà nervosismo magari andare a vedere il proprio deposito titoli e vedere una perdita temporaneamente, però sono investimenti che vanno valutati su un periodo di tempo sufficientemente lungo. E quindi qui torna il vecchio adagio, per così dire, cioè il consiglio che spesso emerge nel corso delle nostre trasmissioni: attenzione, chiedetevi che cosa ci volete fare con quell'investimento. Esatto. Cioè, se vi serve a breve, dopo due anni, il PIR non è lo strumento adatto, mi pare di capire, Brambilla. Sì, diciamo che se l'orizzonte temporale è così breve, diciamo, il PIR può essere l'investimento perché investe in Italia, ma non è certamente interessante rispetto ad altri prodotti perché non hai il beneficio dell'agevolazione fiscale, perché se entro i 5 anni io smobilizzo l'investimento, ovviamente non ho il vantaggio del non pagare il 26% nel caso azionario dell'imposta sul capital gain. Quindi posso complicare la vicenda, ma se... guarda, sul fisco figurati, ti vedevo già acceso. No, nel senso che mi chiedo, ma uno aveva un PIR vecchio e adesso, visto che poi vecchio per modo di dire, sì, visto, insomma, che sono, prima delle correzioni ohimè sventurate del 2019, adesso ante 2019, esatto, aveva un PIR ante 2019, poi ha visto che non è andato bene perché nel 2018 è stato un anno nero, però ha visto che nel 2019 è andato meglio, può mettere altri soldi se non ha raggiunto i famosi 30.000 euro annui, quindi via via decide oggi di metterci un altro po' di denaro. Un'altra fish. Sì, assolutamente sì, anche perché non potrebbe aver raggiunto la cifra massima che è di 150.000 euro, perché essendo stato sottoscrivibile per 2 anni, cioè 2017-2018, ovviamente al massimo può avere sottoscritto 60.000 euro, perché il massimo era 30 all'anno. Quindi sicuramente, ma l'idea è proprio questa, è quella di fare una sorta di piano di accumulo che va a prendere prezzi di entrata differenti, e quindi chi avesse sottoscritto nel 2017 e poi avesse rimpolpato anche nel 2018 con i mercati che avevano corretto, poi il 2019 avrebbe sicuramente recuperato molto di più rispetto al non aver sottoscritto nulla nel 2018. Certo. Quindi l'idea proprio del prodotto è di fare un piano di accumulo. Diciamo 5 anni è il minimo, ma anche in più anni, investendo meno di 30.000 euro all'anno, è sicuramente una tipologia di investimento che si avvicina moltissimo alla logica con cui dovremmo operare sui nostri risparmi. Allora, noi oggi abbiamo chiamato Acomea e Arca Fondi perché sono state tra le prime SGR ad essersi adeguate alla nuova normativa sugli investimenti nei piani individuali di risparmio. Mi piacerebbe sapere come funziona nel dietro le quinte, nel senso che quando sono partite partiti già nella loro prima fase, voi avevate in casa dei prodotti abbastanza simili per i quali è stato abbastanza rapido il processo di adeguamento alla normativa che ha sviluppato questi prodotti di investimento. Poi il blocco e adesso di nuovo la ripartenza. È facile fare questi adeguamenti ad una legislazione così mutevole, Zorzi? Ma sì, è relativamente facile. Allora, nel caso specifico nostro, addirittura come team di gestione, come direzione investimenti, non abbiamo neanche dovuto intervenire sui portafogli perché già erano conformi alla nuova normativa, che in realtà rispetto a quella originale ha portato delle piccole discontinuità. Si è trattato quindi di adeguare la documentazione d'offerta, che chiaramente ha richiesto un impegno al nostro interno per rivederla, per essere sicuri di scriverla conformemente alla nuova normativa, ma tutto sommato è stato un ritorno alle origini. Certo, e agli sportelli bancari presso i quali voi intermediate per esempio i vostri prodotti, avete notato che c'è già un ritorno di richiesta da parte della clientela, o al momento siamo ancora, è troppo presto per dirlo, visto che oggi persino la giornata più triste dell'anno, quindi magari non andranno proprio stamattina in banca a fare questa scelta, Zorzi? Sicuramente è molto presto per trarre conclusioni, però sicuramente gli sviluppi che ci sono stati accolti con grande favore. Mi è venuta un'altra domanda di natura fiscale, te la devi trattenere, sì, proprio sì. Ce la fai? Certo, perché adesso d'altra parte è il momento del traffico. Ogni venerdì a Due di Denari torna al momento poetico. Partecipa anche tu sfidando il sommo poeta titolare Mauro Meazza a comporre un sonetto su un tema a tua scelta. Ma ricorda, l'argomento dovrà essere tratto dalle nostre trasmissioni. Investimenti, risparmi, mercati, tasse, pensioni, leggi. Se sei pronto per questo duello a colpi di poesia, non ti resta che iscriverci a duedidenari@radio24.it. La finanza è poesia. I dessert in menù sono tiramisù, tortino dal cuore caldo, semifreddo alla marena e tartatè congelato. Cosa desidera? Tutti. Grazie. Per chi non vuole rinunciare a nulla, nasce la nuova gamma Fiat Tipo More. Più stile, più tecnologia, più sport. Nuova gamma Tipo More con anticipo zero da 149 euro al mese per i primi 2 anni e poi da 204 euro al mese. E con l'assicurazione make-up inclusa i piccoli danni non sono più un problema. Ci pensa Fiat. TAN 645 TAE GOT 39, offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 31 gennaio. Info su fiat.it. Di denari. Buongiorno, gentilmente una domanda. Noi in famiglia abbiamo investito nel 2017 nei PIR con la vecchia normativa. Se volessimo incrementare l'importo di questi stessi PIR, rientreremmo sempre nella vecchia normativa o cambia con quella nuova? Grazie. Insomma, questi hanno il bollino di PIR di prima generazione oppure devono adattarsi alla nuova? Quanto può durare il PIR aperto nel 2017? Chiede anche Andrea Da Luca, quindi doppia domanda per i nostri ascoltatori. Vuoi aggiungere qualcosa? No, perché secondo me questa qui ci porta anche a rispondere a quello che pensavo io. Ma sentiamo, Giovanni Brambilla, quando... Sì. Perché qui abbiamo degli ascoltatori, come dire, PIR vecchia maniera, prima emissione, verrebbe da dire, primo lotto. Ecco, chiede quanto può durare, potenzialmente anche sempre, però col limite a 150.000 euro. Cioè, finito il 150.000 sì. Non si può più incrementare. Esattamente, a oggi le regole sono queste. Quindi chi ha investito la tranche nel 2017, dopo 5 anni può chiedere il rimborso e l'eventuale plusvalenza realizzata sulla tranche del 2017 non viene tassata con l'imposta sul capital gain, così come le tranche successive. È ovvio che questa cosa non può durare una vita intera, dura finché si arriva al massimo di 150.000 euro, col limite che all'anno si può fare solo 30.000. Quindi se uno mette 10.000 euro ogni anno, sì, dopo 5 anni può cominciare a disinvestire i 10.000 euro del primo anno e non così pagando via, imposte su quei 10.000 euro, sul guadagno relativo a quei 10.000 euro. A quei 10.000 euro, esattamente. Per cui questa è la formula. È ovvio che se uno mette 10.000 euro lo può fare per 15 anni, se mette 10.000 euro ogni anno, perché il massimo, il vincolo è 150.000 euro. E l'ultima tranche degli ultimi 10.000 euro che mette al 15° anno saranno fiscalmente esenti al 20° anno, cioè 5 anni dopo. Sì, 5 anni dopo, esattamente. e continuerà però a entrare con le regole della prima sottoscrizione, della prima, cioè stando così la legge, poi in Italia le norme fiscali sono quanto mai mutevoli. Certamente, però... se poi domani rivedranno l'ammontare massimo o, diciamo, di tutta la vita del PIR o l'ammontare massimo del singolo anno, questo poi bisognerà vedere se allargheranno anche i vecchi o solo per i nuovi, però questo ovviamente oggi non lo possiamo stabilire. Alberto, io parlerei di fisco per tutta la mattina, ma forse tu avevi altre domande. Placati. Ti puoi sfogare il 30 gennaio con Telefisco. Vai lì, c'hai 12 ore di tempo in cui puoi fare tutta la tua prestazione, sfogare tutto il tuo istinto. Alberto Zorzi, vorrei raccontare qualcosa in più ai nostri ascoltatori rispetto all'universo investibile dei PIR, perché peraltro un grande obiettivo della norma, della prima norma appunto che li ha lanciati, era anche quello di incentivare le aziende italiane a quotarsi in borsa in modo tale che si potessero ampliare per voi le opportunità di investimento e poi anche per noi risparmiatori naturalmente. Forse questa parte della norma è stata quella di minor successo, ma in ogni caso ci può raccontare cosa c'è dentro un PIR? Ma i PIR possono investire in strumenti finanziari, dopodiché l'enfasi della norma nell'individuare la parte qualificante, andare a, come dire, incentivare, far riferimento alla FTSE MIB, il riferimento alle mid cap, può indurre a pensare che l'universo investibile sia rappresentato solo da azioni. In realtà i PIR possono investire anche in obbligazioni, noi stessi offriamo PIR bilanciati, quindi questo dà la possibilità ai sottoscrittori di avere prodotti diversificati anche internazionalmente volendo, perché sappiamo che devono investire in Italia per il 70%, ma anche per tipologia di prodotto. Dopodiché l'investimento nel mondo della piccola e media impresa, per come sono disegnati oggi, dà comunque la possibilità a noi gestori di fare scelte attive, perché l'universo investibile qualificante, diciamo così, ha una market cap di circa 30 miliardi di euro e un flottante di una decina circa, quindi oggi come oggi ci permette comunque nel mondo azionario di fare delle scelte attive importanti e significative. Tra l'altro c'è stata una fase in cui anche il mercato di riferimento dei PIR è cresciuto moltissimo, l'AIM, e qualcuno ha detto attenzione che qua adesso parte la bolla dei PIR, mi pare che poi quel fenomeno lì sia stato anche abbastanza rapidamente circoscritto, poi il mercato si è aggiustato, non lo so, Brambilla vuole commentare anche questo aspetto? Sì, no, diciamo che c'è stata sicuramente una salita importante prima ancora che i PIR partissero materialmente, perché ovviamente i fondi che potevano investire in azioni o in obbligazioni italiane hanno ovviamente anticipato un po' la partenza dei PIR del 2017. Poi c'è stato ovviamente il 2018, che è stato un anno diciamo negativo per molte asset class, e quindi questo ha riportato un po' i valori delle aziende e delle sia azionari che obbligazionari, ha riportato un pochino più indietro, e poi ovviamente l'anno scorso, dove invece c'è stato un ottimo ritorno. Quindi nel frattempo il mercato delle IPO, quindi delle nuove quotazioni, ha continuato a offrire possibilità di investimento per prodotti di questo genere, quindi diciamo che oggi il mercato è un mercato che sicuramente dà e offre opportunità significative anche da un punto di vista di valutazione. La domanda cattiva andrebbe fatta sul finale, manca un minuto di tempo prima di salutarci: quanto costano? Non lo vogliamo chiedere? Certo, costano me l'ha suggerita Meazza, di più o di meno di altri prodotti analoghi, paragonabili, insomma. No, i costi sono allineati, dipende dalla tipologia di prodotto, se è un bilanciato, se è un azionario, se è un obbligazionario puro, però il fatto che sia PIR o non PIR dal punto di vista del pricing ha poche differenze. E il legame con le piccole e medie imprese e le loro quotazioni non li rende più rischiosi di altri prodotti? Perché qualche volta qualche ascoltatore ce lo chiede. Ma no, non li rende più rischiosi perché l'investment case va fatto in ogni caso, no? L'analisi dell'azienda, la bontà quindi di quello che andiamo a comprare è un qualcosa che è indipendente dal fatto che sia un PIR o non sia un PIR. Chiaro che aziende con una piccola capitalizzazione, con scambi limitati sui mercati, possono dare luogo a un po' di volatilità, ma è un qualcosa che, di nuovo, per chi entra con un piano d'accumulo, per chi entra con un orizzonte temporale lungo, si assorbe. E insomma, per tutti gli interessati, il mercato è ripartito e quindi chiedete eventualmente al vostro intermediario. Voglio solo rispondere velocemente alla domanda di Stefania che chiede: voglio sapere se esiste la portabilità dei PIR, perché nel mio caso sono stata costretta a chiuderlo per trasferire il conto presso una banca diversa che non trattava il PIR Arca. Conosciamo bene questa situazione, forse è una situazione Zorzi generata in Veneto, ma ci scriva Stefania a 2didenari@radio24.it e naturalmente le faremo rispondere dai nostri esperti. Sai cosa stai sentendo in sottofondo? Fammi sentire. Bang Bang nella versione dei Corvi, ma tutta la settimana. Io voglio . Quella napoletana, l'ho già detto e ribadito. Grazie a Giovanni Brambilla, ad Alberto Zorzi per essere stati con noi. A domani, buona giornata.